L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato alla cultura, alla politica, all'attualità europea. Le coordinate per seguirci anche via internet ci trovate su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, le nostre pagine ufficiali, oppure su Twitter, l'account e il mio personale, @ Federico Taddia. Queste sono le coordinate per conoscere e ritrovare tutti i link degli argomenti di cui parliamo, pagine che aggiorniamo minuto per minuto. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte dalla Germania. Es war einmal, wer weiß wie es dahin kam, in einem tiefen Wald ein Häuschen. Es war weder groß noch klein, weder schön noch hässlich, aber es hatte eine Besonderheit, einen großen Schornstein. Es war einfach ein Häuschen, ein richtiges kleines Hexenhäuschen. Hier und da ein Spinnennetz, geheimnisvolle Zeichen, überaus weise Zauberbücher. Quella che state ascoltando è una fiaba per bambini, perché oggi parliamo di parole, parliamo di Europa e parole, parliamo anche delle parole che l'Europa ha deciso di non utilizzare più. E questa fiaba l'abbiamo presa come esempio, la piccola strega, perché si è aperto un dibattito su questa fiaba e su altre fiabe sul fatto se ci sono parole che è ora di smettere di utilizzare, soprattutto in chiave educativa. Una di queste parole che è al centro di questa fiaba è la parola negro. Con noi c'è Ambros Weibel del quotidiano Taz, che ha fatto una sorta di campagna appunto a favore di questa pulizia delle parole pubblicando un racconto dei fratelli Grimm rivisto e corretto con termini modernizzati. Ben ritrovato Ambros, ciao, grazie per essere qua con noi. Ciao Federico, buongiorno agli ascoltatori. Ricordiamo il quotidiano Taz, prima di entrare nello specifico, questa settimana la vostra prima pagina sulle dimissioni del Papa ha fatto il giro del mondo, questo grazie a Dio, questa pagina bianca che è stata ripresa veramente in rete, in tutto il globo, insomma, è una scelta forte. Ma diciamo che era la ripetizione della pagina 1 che abbiamo fatto quando Ratzinger è stato eletto, perché allora abbiamo titolato Oddio, nel senso di non siamo mica contenti con questa scelta, così ovviamente abbiamo dovuto reagire a questa svolta, no? Così mm-hmm. Per questo abbiamo fatto questa prima pagina. Ok, l'ho pubblicata tra l'altro immediatamente qui nelle nostre pagine in Facebook per chi la volesse rivedere. Ambros, raccontaci un po' cosa sta succedendo in Germania su l'uso delle parole politicamente corrette partendo appunto dai bambini. Come hai detto tu prima, tutto è cominciato all'inizio dell'anno con la decisione dell'editore della Piccola Strega di non usare più una certa parola, che è la parola Negerlein, che sarebbe piccolo negro. Sì. L'editore ha detto, più che altro ha dato due argomenti. Il primo argomento era quando Ottfried Preußler nel 1957 scrisse questo racconto. Ovviamente la parola non era offensiva, sì. Perché Preußler non è un autore razzista di destra, anzi lui è uno che vuole educare i bimbi a valori, diciamo, democratici. E per questo hanno fatto questa scelta di togliere questa parola. E allora si è acceso un dibattito sulla censura, sul valore di un pezzo d'arte, perché ovviamente la Piccola Strega è molto famosa non solo in Germania, ma forse un po' direi in tutto il mondo. Certo. E noi abbiamo accompagnato questo dibattito con testi vari, no? Non è che abbiamo fatto proprio una campagna a favore, ma abbiamo pubblicato diversi saggi di autori, di scrittori, di giornalisti su questo argomento. Certo, a livello europeo si sta ragionando in maniera simile, magari con importanti assonanze. Non è un percorso comune, però si trovano tante piccole operazioni di questo tipo. Proprio ieri l'altro in Olanda, un altro quotidiano, il De Morgen, ha deciso di bandire la parola Halloween, o meglio riporta la scelta di qualche comune come quello di Geande e quello di Amsterdam di togliere questa parola che significa alloctono, che è il contrario di autoctono, proprio persone che vengono da un altro paese, perché si porta dietro una eco dispregiativa questo termine, e quindi c'è proprio un'attenzione, e anche questo pensi possa creare una cultura comune a livello europeo, questa scelta di utilizzare o meglio di non utilizzare certe parole? Sì, diciamo, credo che il punto più importante sia non proprio le decisioni vere. Dobbiamo discutere questo tema per un certo motivo, perché per esempio quando è stato scritto Calzelunghe, no, di Astrid Lindgren, sì. Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, anche lì c'è la parola negro. Ma allora, quando Lincoln scrisse questo racconto, non c'erano i svedesi di pelle scura. Così l'ambito del racconto era totalmente diverso. E noi in Germania abbiamo avuto una bellissima cosa, che sulla Zeit, che è un settimanale molto, molto, molto famoso in Germania, un giornalista ha detto: ma non si può fare questa forma di censura. Quando Preuss ha scritto negro, dobbiamo ripetere fino alla fine del mondo. E poi una ragazza di 9 anni scrisse una lettera. Lei ha un padre di pelle scura e lei ha descritto a questo giornalista come sia offensiva per lei e per suo padre questa parola. E questa lettera della bimba era così bella e così commovente che credo che dopo questa lettera veramente tutta la discussione sia un po' calmata. Certo. Perché è ovvio che un bambino di 9 anni sa quando si sente offesa o no. E se lei dice basta con queste parole, il libro è bello come prima, La piccola strega. La bellezza del libro non dipende di questa parola. Così io direi, non parliamo tanto di censura, ma vediamo un po' in giro, vediamo un po' intorno come un altro e vede questo dibattito. Ambrose, grazie davvero come sempre per averci dato un assaggio, anzi no, una fotografia abbastanza completa, illuminata e approfondita di quello che sta succedendo in Germania. Sono spunti per la nostra cara e amata Europa. Ciao, a presto e buon lavoro, Ambrose. Grazie a te, grazie a voi. A presto, ciao, ciao. Ciao. Europost-it. Cercasi volontario per progetto internazionale con bambini rom. Volete fare un'esperienza di volontariato all'estero? Siete interessati ai temi legati all'infanzia e alla cultura rom? IBO Italia cerca un volontario per il Centro Pinocchio di Panciu in Romania, che ospita quotidianamente 40 bambini, parte dei quali appartiene alla minoranza rom del paese. Si tratta di un progetto di servizio volontario europeo che mira all'inclusione sociale, all'educazione e alla lotta alla discriminazione in una delle aree più povere della Romania. Se pensate di avere i requisiti giusti, visitate il sito iboitalia.org. La durata del progetto è di 11 mesi e la partenza è prevista per il prossimo 5 marzo. Ono što je bitno istaći na samom početku, znači sam ulazak Hrvatske u Europsku uniju puno znači za Republiku Hrvatsku, ali za cijeli region. Naravno, mi kao prvi susjed Hrvatske ćemo na neki način biti najviše afektirani ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Uvijek se treba govoriti i o nekim prilikama. Quello che state ascoltando è un servizio di Al Jazeera dove si parla di adesione dei paesi balcanici, si parla della Croazia, si parla della Bosnia, si parla del percorso che questi paesi stanno facendo verso l'Europa. Oggi torniamo sull'argomento perché ci siamo allarmati. Abbiamo letto in questi giorni, in queste settimane, quello che sta succedendo in Croazia. La Croazia dal 1 luglio dovrebbe essere il 28esimo paese dell'Unione Europea, però entro il 1 marzo vanno completate delle rettifiche, va ratificato questa l'ingresso da parte di tutte le altre nazioni. Ci sono però degli ostacoli nel percorso, ostacoli che potrebbero compromettere addirittura l'adesione dal 1 luglio della, della Croazia. Per capire bene quindi quello che sta accadendo, abbiamo invitato Paola Pampaloni, capo unità della direzione allargamento della Commissione Europea. Ha lavorato molto per la Croazia, in questo momento si sta occupando di Bosnia e Erzegovina, però conosce benissimo l'argomento. Buongiorno Paola, bentornata all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. È una preoccupazione reale quella che ci ha pervaso, i grandi festeggiamenti per l'ingresso della Croazia dal 1 luglio potrebbero aver bisogno di essere rivisti, di essere cancellati. Beh, noi a Bruxelles ci aspettiamo che la ratifica di tutti gli stati membri del trattato di adesione della Croazia sia completata come da trattato, come scritto nel trattato, alla fine di giugno, quindi abbiamo ancora 8 ratifiche che mancano. Di queste 8 ratifiche in realtà 4 stati membri hanno già terminato la loro procedura interna al Parlamento di ratifiche e invece altri 4 stati membri non l'hanno ancora completata. Sul nostro calcolo, sulla nostra aspettativa è che queste procedure possono ancora essere completate in tempo e la data fondamentale per noi è che siano completate entro la fine di giugno. Perché queste ratifiche sono assolutamente vincolanti? Sì, la ratifica è praticamente una legge di ognuno dei nostri stati membri che deve passare il governo e il Parlamento, le varie camere del Parlamento, e la notifica che questa procedura è terminata all'interno di ogni Stato membro deve essere depositata al Consiglio qui a Bruxelles entro il 30 giugno del 2013 per poter celebrare l'entrata del nostro 28esimo Stato nell'Unione Europea. La data che hai menzionato del 1 marzo non è una data del trattato, è stata una data che è stata menzionata dalla stampa a livello puramente informale sul calcolo della necessità di quante settimane, quanti mesi servono per uno Stato membro per procedere alla ratifica sulla base della sua procedura. E l'unico Stato che non ha ancora iniziato questa procedura è la Slovenia, mentre negli altri quattro che ho menzionato prima, che sono Danimarca, Germania e Belgio, questi tre hanno già avanzato la loro procedura di ratifica, quindi sono quasi alla fine della procedura di ratifica. Ecco, la Slovenia è apparentemente l'osso più duro, l'osso più ostico. Stavo leggendo in questi giorni, c'è una sorta di ricatto, ci sono anni, decenni di malumori, di guerre, di questioni economiche anche irrisolte e tornano tutte a galla ora. La Slovenia, se guardiamo al momento dell'adesione della Slovenia all'Unione Europea, già nei nostri rapporti durante il quinto allargamento, quindi andiamo dal 97 fino al 2004, il problema della Slovenia e della Croazia, c'erano tre grossi problemi bilaterali non risolti, che era la questione della Ljubljanska banka, la questione dei confini marittimi nella baia di Pirano e la questione della proprietà della centrale nucleare a Krško. Questi erano problemi conosciuti che noi come Commissione Europea abbiamo sempre auspicato, incoraggiato la soluzione a livello bilaterale. Purtroppo uno di questi problemi, questo della Ljubljanska banka, è ancora un problema dove non si è trovata una soluzione e il commissario per l'allargamento Stefan Füle ha sempre incitato, incoraggiato i due ministri degli esteri, i due primi ministri della Slovenia e della Croazia a trovare una soluzione sulla questione dei risparmiatori che hanno perso i risparmi al momento della dissoluzione della ex Jugoslavia, i risparmi che avevano in questa banca che si è dissolta all'inizio degli anni 90. Certo. Paola, ma qual è l'umore nella vostra direzione allargamento? Nel senso, si fa tanta fatica, anni di studi, anni di trattative, di accordi bilaterali e poi proprio quando si è lì a pochi metri dal traguardo sembra crollare tutto. Infatti per quello noi diciamo tutti quanti che non vogliamo neanche pensare a questa ipotesi che di non poter accogliere la Croazia nell'Unione Europea il primo di luglio, e c'è un'attività diplomatica veramente intensa in questo momento per cercare di incoraggiare i due paesi a trovare una soluzione. C'è ancora la possibilità e abbiamo ancora la speranza e la convinzione che alla fine una soluzione di compromesso sia trovata in tempo. La Croazia ha fatto domanda di adesione nel 2003, entra nel 2013, quindi è un percorso che è durato 10 anni, e da parte nostra, dove abbiamo avuto centinaia di persone della Commissione Europea e sicuramente centinaia, migliaia di persone nell'amministrazione croata che hanno lavorato veramente tanto per poter negoziare la loro entrata nell'Unione Europea, Non vogliamo neanche considerare questa come una ipotesi, in quanto il trattato stesso prevede la data del primo di luglio, quindi non c'è una possibilità di posticiparlo, è un articolo del trattato stesso che prevede l'entrata nell'Unione Europea nel primo di luglio, ed è un trattato che è stato già ratificato da quasi tutti, come ho detto prima, gli Stati membri, quindi sarebbe un problema veramente grosso non poter rispettare questa data. Paola, prima di salutarci, proprio un flash invece su Bosnia e Erzegovina, com'è la situazione? Beh, Bosnia e Erzegovina, la situazione non è allo stesso livello della Croazia. La Croazia nei paesi della ex Jugoslavia in questo momento è il paese che è più avanzato nella procedura di integrazione europea, e la Bosnia purtroppo è un paese che non siamo ancora riusciti a trasformare sufficientemente per incoraggiarlo a fare una domanda di adesione. La Bosnia non ha ancora fatto domanda di adesione nell'Unione Europea e è ancora governata da una sorta di semiprotettorato internazionale. Nel paese abbiamo ancora una missione militare europea nel paese, quindi nella lista, diciamo, è il paese che è un pochino più indietro rispetto agli altri, e sicuramente per la Bosnia l'entrata della Croazia nell'Unione Europea sarà un avvenimento importantissimo, perché se tu guardi i confini della Croazia, La maggioranza dei confini croati, più di 1000 chilometri, sono con la Bosnia e Erzegovina, quindi la Bosnia diventa il nostro paese vicino all'Unione Europea dal primo di luglio, e ci saranno tantissime conseguenze a livello commerciale, a livello di transito, a livello di posti di frontiera, che cambierà anche per questo paese dal primo di luglio di quest'anno. Quindi stiamo, anche ieri per esempio, abbiamo avuto una riunione trilaterale a Bruxelles dove i due ministri degli esteri sono stati invitati, il ministro degli esteri croato e bosniaco, per cercare di discutere tutte le questioni bilaterali che esistono in questo momento tra questi due paesi. Perfetto, seguiremo sicuramente tutte le vicende nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Un grazie a Paola Pampaloni, capo unità della direzione allargamento della Commissione Europea. Buon lavoro Paola. Ciao Federico, ciao. Europost-it. Migranti in Europa. La Commissione europea lancia un concorso multimediale europeo. Qual è il ruolo dei migranti in Europa? La Commissione invita gli studenti maggiorenni delle scuole di arte, grafica e comunicazione dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, più la Croazia, a riflettere sul contributo dei migranti alle società europee. Per partecipare occorre presentare entro il 21 giugno 2013 un'opera d'arte che rappresenti il ruolo dei migranti nella propria vita quotidiana. Le opere saranno suddivise in 3 categorie: poster, fotografia e video. Ogni scuola potrà concorrere con una o più opere in una o più categorie. Le opere saranno valutate a livello nazionale e quelle giudicate migliori, fino a 10 per paese, verranno inviate a una giuria europea che selezionerà i 30 finalisti e nominerà un vincitore europeo per ciascuna categoria. Per maggiori informazioni visitate il sito migrantsineurope.eu. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre L'Altra Europa, facebook.com/L'Altra Europa, oppure su Twitter l'account è @FedericoTaddia, lì trovate i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. E con questa canzone, con questo rock, parliamo di sfratti, parliamo di Spagna, parliamo della bolla immobiliare che ha piegato un paese però che si sta ribellando e per la prima volta una legge di iniziativa popolare ha avuto successo, è la prima volta che gli spagnoli riescono a risollevarsi, riescono almeno apparentemente a frenare il potere delle banche. Cosa sta succedendo in Spagna in questi giorni? Per capirlo meglio abbiamo invitato un amico dell'altra Europa, con noi c'è Jorge Maria Rodriguez, capo redattore della redazione internazionale del Paese. Ciao Jorge, ben ritrovato. Buongiorno Federico, come stai? Io bene, voi? Sì. In Spagna le cose, come avete visto questa settimana, sono state un po' mosse. Un po' tanto, però in chiave positiva? Sì, certamente. Beh, in chiave positiva, prima di tutto c'è stata una settimana dura perché tre persone si hanno tolto la vita, tre persone, una coppia, un matrimonio di anziani che stavano per essere cacciati via da casa sua. E poi un'altra persona da 55 anni, un disoccupato che si trovava nella stessa situazione. Certo. Diciamo che questa è la parte nera. La parte positiva, per la prima volta la Camera spagnola ha approvato un'iniziativa popolare. L'iniziativa popolare è un meccanismo che è preveduto dalla Costituzione, con la quale dopo 1 milione di firme si può mettere in moto una legge per qualsiasi cosa. In questo caso si sta cercando di ridefinire il pagamento dei debiti per i disoccupati e la gente che rischia di perdere la vivienda. Certo, i mutui sono il cuore della questione, i debiti nei confronti delle banche, queste banche che se non riesce a pagare il mutuo si prendono la casa, quindi c'è lo sfratto e in più però bisogna anche completare il pagamento dei certo. debiti e degli interessi. Questa legge popolare cerca di frenare questo? Certo, perché ci siamo trovati davanti a casi veramente drammatici, perché non soltanto si rischia di perdere la casa acquistata, ma tutti i beni, secondo la legge, tutti i beni presenti e futuri. Quindi diciamo che io non posso pagare più e devo lasciare casa mia, e tutti gli stipendi che prenderò fino a quando il debito si è compiuto li devo pagare ancora. E per esempio ci abbiamo trovato davanti a tanti casi di persone che, per esempio persone anziane che avevano rispaldato l'acquisto di una casa per un figlio, e non soltanto il figlio ha perso la casa, ma pure loro hanno perso la sua, la loro. Mm-hmm. Jorge, ma questo è quello che noi leggiamo sui giornali, queste sono le notizie che arrivano, che girano, e poi uno scende in strada e qual è l'umore in queste settimane in Spagna? L'umore è che diciamo che da una parte stiamo iniziando a ricevere notizie positive da parte della macroeconomia, ma la microeconomia siamo in una situazione, non direi forse disperata come la Grecia, ma una situazione veramente difficile. Abbiamo 6 milioni di disoccupati, 6 milioni, quando si parla di un paese o un altro, forse parlare di milioni, tutto dipende dalla popolazione. Ma per dare un'idea agli ascoltatori italiani, di ogni 10 persone che ti trovi per strada, almeno 3 sono disoccupati, che possono lavorare. Poi ci sono i pensionati, i bambini. Alla fine di ogni 10 persone che quando vai in strada ti trovi, forse stanno lavorando 3. Mm-hmm. E questo è indicativo di una nazione, sì, che appunto, che stanno lavorando 3 che rischiano di perdere il lavoro. Esatto. E quella è un'altra, perché diciamo che tutte le grandi aziende, le piccole pure, il passo che stanno dando avanti è quello di licenziare lavoratori per cercare di avere i conti a posto, ma il fatto che non si distrugge il lavoro ma non si crea nuovo. Certo. Jorge, come sempre, grazie davvero per la tua testimonianza. Speriamo davvero che questa legge possa portare a qualcosa. Speriamo che anche nell'economia spagnola arrivi un po' di ossigeno e che questo ossigeno si traduca in qualcosa di salutare, in una nuova speranza per i cittadini. Buon lavoro e alla prossima, Jorge. Grazie. Grazie Federico, grazie a voi. Europostet. Euradio Nantes cerca tirocinanti. Avete sempre sognato di lavorare in radio? Volete fare un'esperienza formativa nell'ambito dei New European Media? La stazione radio supportata dalla Commissione Europea, Euradio Nantes, ha lanciato un invito internazionale per selezionare il gruppo di tirocinanti che sarà impiegato nei prossimi mesi. I tirocini hanno una durata di 6 mesi e prevedono un rimborso spese mensile. Se parlate correntemente francese, volete lavorare nell'ambito giornalistico e avete fatto studi in scienze politiche e materie europee, visitate le pagine dedicate al recruitment del sito euradionant.eu. La musica che state ascoltando è la colonna sonora dello spot che potete trovare sul sito dialogocittadini.it. Lo spot di questa serie di iniziative, i commissari europei che scendono in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini, si confrontano con loro, rispondono a domande dirette su tematiche specifiche. E proprio a Torino il 21 febbraio ci sarà la seconda tappa del tour, chiamiamolo così, dei commissari europei in Italia per capire cosa succederà. C'è con noi Alessandro Giordani, capo settore comunicazione, informazione e reti della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Alessandro, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno. Tutto pronto allora per il 21 febbraio prossimo a Torino, secondo appuntamento. Si parla di sicurezza. Cosa succederà? Sì, è tutto pronto, stiamo avvicinandoci appunto alla tappa di Torino del 21 di febbraio, la mattina, ed è una tappa che si inserisce in una serie di tappe, come hai detto tu giustamente. Si tratta di un tour dei commissari che per la prima volta, in maniera devo dire anche abbastanza innovativa rispetto a quello che è stato fatto in passato, scendono tra la gente, non fanno grandi discorsi, non fanno grandi presentazioni, non c'è un pubblico silenzioso e una cattedra, ma si mettono in mezzo col sindaco della città a una serie di cittadini e di persone che non rappresentano istituzioni particolari, ma sono cittadini che vengono da tutte le estrazioni, da tutte le esperienze, e discutono direttamente col commissario rispetto alla portafoglio di competenza di quel commissario. Abbiamo a Torino la commissaria Malmström, che è responsabile per la sicurezza essenzialmente e per gli affari interni dell'Unione Europea, e avendo avuto modo magari di informarsi un attimo prima, parlano col commissario, criticano, dicono la loro sul futuro dell'Europa, sul tipo di competenze che esercita la Commissione in quei determinati ambiti, come la vedono loro, anche le loro frustrazioni, anche le loro critiche. Quindi non c'è nulla di predeterminato, e questo serve alla Commissione per portare ad un periodo che è quello che più o meno tra 18 mesi si compirà con le elezioni europee, che è un periodo dirimente per la storia dell'Unione Europea, perché si compiranno delle scelte fondamentali per il futuro della costruzione dell'unità europea, che non possono essere fatte senza coinvolgere direttamente i cittadini. Ecco perché questa cosa innovativa, questo tour dei commissari che, come dicevi tu, scendono tra la gente, parlano alle persone e poi l'Europa ascolta essenzialmente e cercherà di trarre le conseguenze di quelle che sono anche le ansie, le critiche e i plausi oppure gli apprezzamenti che la Commissione, i cittadini hanno su quello che la Commissione Europea e l'Unione Europea fa. Cittadini che possono intervenire in diretta anche senza per forza dover essere a Torino grazie alla rete. Tutto ciò sarà in diretta streaming, infatti, dal sito www.ec.europa.eu/italia, ma soprattutto via Twitter, potete iniziare a porre le vostre domande. L'hashtag da utilizzare è Dialogo Cittadini. Ovviamente alcune domande verranno selezionate, perché come sempre sono tante, verranno implementate in questa chiacchierata, perché sarà una chiacchierata con la commissaria Malmström. Questo per noi, Federico, è molto importante, perché il fatto che ci sia la possibilità fin da ora di twittare delle domande con l'hashtag Dialogo Cittadini e di farlo anche in diretta durante l'evento, perché sarà appunto trasmesso in diretta web streaming, ci permette di moltiplicare, perché altrimenti ovviamente la presenza fisica delle persone, che saranno più o meno 200, è quella che è. Riusciamo a essere molto più incisivi nel coinvolgimento del dialogo attraverso questi strumenti, che vanno assolutamente usati soprattutto dai giovani. Perfetto, grazie davvero a Alessandro Giordani, capo settore comunicazione, informazione e reti. Ricordiamo dialogocittadini.it il sito per avere tutte le informazioni. Ci sarò anch'io, quindi ci vedremo lì a Torino. Ciao Alessandro. Perfetto, ciao Federico. Ciao, buon sabato. Ciao. Pugne. Si parlerà di sicurezza a Torino, si parla ora qui all'Altra Europa di un altro tipo di sicurezza, la cyber security. È stato lanciato il nuovo piano di sicurezza informatica dell'Unione Europea per tutelare l'internet aperta, la libertà e le opportunità nella rete. Per capire dal punto di vista politico l'importanza di questo piano, c'è con noi Giuseppe Abbamonte, capo dell'unità che si occupa della sicurezza cibernetica all'interno della Direzione Generale Connect. Buongiorno Giuseppe, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Cos'è la cyber security? Cosa significa? Cosa dobbiamo temere? Ma guardi, in soldoni, cioè le economie moderne e il mercato europeo, ma anche la sicurezza dei cittadini europei, sono sempre più dipendenti dall'internet e dai sistemi e dalle reti informatiche. Ora, questi sistemi presentano delle vulnerabilità, in quanto gli incidenti che possono avere le cause più svariate, come le calamità naturali o gli errori di manutenzione del software o gli attacchi informatici, sono in aumento. Cioè, per esempio, nel 2011 rispetto all'anno precedente soltanto gli attacchi informatici sono aumentati dell'81%, e questi incidenti compromettono il funzionamento delle reti e dei sistemi informatici. Quindi, al fine di preservare la fiducia del consumatore nell'economia digitale, nell'economia legata all'internet, che rappresenta pur sempre quasi il 6% del PIL europeo, e per difendere la sicurezza della nostra società, delle società europee, è necessario tutelare l'affidabilità e la resilienza di questi sistemi e reti, e l'integrità naturalmente dei dati contenuti e che viaggiano su queste reti. Certo. L'Altra Europa. Eccoci qua, l'Altra Europa, ancora con Giuseppe Abbamonte, capo dell'unità che si occupa di sicurezza cibernetica all'interno della Direzione Generale Connect. Un numero su tutti: si stima che ogni giorno circolano 150.000 virus informatici e siano infettati 148.000 computer. Abbamonte, questo significa che non si può che fare una lotta, una difesa comune. Veramente ogni nazione deve essere intrecciata con le altre, perché non basta, cioè bisogna muoversi in maniera comunitaria su questo, è ovvio. Ma guardi, assolutamente, come dicevo prima, quindi gli attacchi sono in aumento, ma gli incidenti possono essere causati anche da fattori umani o da calamità naturali. L'obiettivo proprio della strategia, appunto il primo obiettivo della strategia, è aumentare la resilienza e la preparazione e la risposta in caso di incidenti o attacco a livello europeo, quindi a livello dei singoli stati che rappresentano i vari anelli della catena della sicurezza cibernetica, ma a livello europeo. Il secondo obiettivo della strategia è appunto una lotta più efficace alla cybercriminalità, quindi a questi agli hackers cattivi, e il terzo obiettivo della strategia è quella che noi chiamiamo la dimensione esterna della sicurezza cyber, e vale a dire iscrivere la sicurezza, la cyber security in capo alla nostra agenda internazionale, e cercare anche al contempo nei dialoghi e nelle relazioni con i nostri partner internazionali di esportare quelli che sono i nostri valori fondamentali, come la protezione dei dati e la libertà di espressione. Questo è assolutamente fondamentale, come è fondamentale prendere consapevolezza, quindi parlare di queste cose. Tra l'altro vi invito a seguire anche Enrico Pagliarini col suo 2024, che in queste puntate dedicherà spazio alla cyber security all'interno dell'Unione. Grazie davvero a Abbamonte, complimenti a lei e a tutto il suo team, buon lavoro. Molte grazie, arrivederci. Parliamo di amore adesso all'Altra Europa. La stessa rappresentanza in Italia della Commissione Europea per San Valentino ha invitato via Twitter a lanciare una sorta di raccolta delle fotografie delle città europee più romantiche. Ne abbiamo pubblicate alcune sulle nostre pagine in Facebook. Ma poi vogliamo parlare d'amore raccontandovi una storia, perché ci piace anche la storia di chi si inventa un lavoro nei vari angoli d'Europa. Non poteva che nascere a Parigi questo lavoro, Lui si chiama Nicolas e un articolo della stampa di qualche giorno fa lo presentava come l'uomo che inventa le proposte di matrimonio. Nicolas, 34 anni, fondatore dell'agenzia Dichiarazioni d'amore Apoteo Surprise, è qua con noi. Ciao Nicolas. Sì, buongiorno. Tu sei un ingegnere aeronautico, hai vissuto in Italia qualche anno e volevi diventare un progettista di macchine da Formula 1, ti sei trovato invece ad inventare dichiarazioni d'amore molto originali e anche molto costose. Com'è nata l'idea di questo lavoro? Ma sono sempre stato romantico e da piccolo sono stato fortunato di vivere 4 anni in Italia quando ho fatto la scuola media in Italia. Sì. E dunque è vero che ero nel Veneto, vicino a Venezia, e di vedere quasi ogni settimana innamorati baciarsi in gondola mi ha fatto diventare romantico, e anche le ragazzine italiane mi hanno fatto diventare romantico. E quando sono tornato in Francia è vero che sono stato anche romantico, e non ho mai capisco perché non c'era nessuno servizio per aiutare tutti gli innamorati a fare una bella sorpresa, qualcosa di spettacolare per la loro innamorata. Certo, leggevo un po' tra le tue proposte, ci sono i grandi classici come la dichiarazione in mongolfiera o con l'aborto della limousine, i fuochi d'artificio, la carrozza di Cenerentola, fino a ieri o ieri l'altro che hai organizzato una dichiarazione d'amore nello spazio, ho capito bene? Sì, ho 30 eventi che permettono a tutti gli innamorati che vengono a Parigi di fare la loro proposta, e ieri era la prima volta che facciamo questo nuovo servizio, e per la prima volta un messaggio di amore e la foto della coppia sono andati nella stratosfera a 34 km di altezza, di altitudine. No, non c'entra e niente con la pioggia di asteroidi, vero? Come? Non ha nulla a che fare con la pioggia di asteroidi che ha colpito gli Urali. No, ok, perfetto. Non è colpa mia questa volta. E dunque, dopo il messaggio è andato giù, abbiamo avuto la video e durante più di un minuto abbiamo fatto un montaggio che mostra il messaggio che va nello spazio. È qualcosa di splendido e di molto spettacolare. E quanto è costato tutto ciò all'innamorato? Questo servizio costa 4.990 euro. Mm-hmm. Leggevo anche di un finto agguato di briganti, oppure allo stadio di Parigi, l'hai privatizzato per l'occasione. Non ti manca la fantasia? Sì, no, voglio, quando qualcosa mi sembra impossibile voglio farlo, ma direi che quello che è il più romantico è la carrozza di Cenerentola che apparisce a Place Vendôme a Parigi con la scarpa magica, o anche la cena su un yacht privato con 1.000 rose che cadono dal cielo. Provo a fare qualcosa di veramente magico per tutti quelli che vengono a Parigi. Vi ricordo che potete ritrovarli tutti sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure sul nostro sito radio24.it, da dove potete anche riascoltare la puntata. Da lunedì sarà disponibile in podcast. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, a Margherita Aina e a Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata. Un grazie a Giorgio De Luca in assistenza e a Peter Bescapè alla parte tecnica. L'appuntamento all'Altra Europa, come sempre, è a sabato prossimo. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia.